известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. U.S. Bank at the 105 North Range line had a customer come in today and made threats to have an explosive device on the roof. Una storia piccola piccola che però può assumere un notevole valore esemplare. Dunque siamo a Joplin, questo è lo sceriffo di Joplin, Missouri, una accaldata mattinata in un posto qualsiasi, nel cuore di una America qualsiasi. Ebbene, un signore che più tardi sarebbe stato identificato come il 71enne Billy Appier, proveniente da Cherokee nel Kansas, entra nella locale banca della cittadina e dice improvvisamente ai cassieri, anzi urla improvvisamente ai cassieri: voglio soldi, datemi dei soldi. Insomma, la questione diventa anche più preoccupante quando il signor Appier fa vedere, anzi dice, di essere foderato di dinamite e che se non gli verranno immediatamente consegnati, che cosa? Dei soldi tout court, dei soldi e basta. Lui vuole dei soldi, ne ha ormai un bisogno fisico, ne ha un bisogno fisiologico, ne ha un bisogno tardivamente americano, se me la passate. Se non gli daranno dei soldi, farà saltare in banca, farà saltare in alto la banca con la bomba che dice di avere addosso, forse dice di aver nascosto nel tetto. Insomma, un po' alla volta la polizia capisce che il signore non è perfettamente per la quale viene prima fatta sgomprare la piccola banca di Joplin, poi gli SWAT, gli agenti speciali con le teste di cuoio entrano, se lo portano via. Ci sono le fotografie su tutti i siti informativi d'America. È un signore anziano, un po' anche sovrappeso, gli hanno tolto le scarpe, c'è la camicia tutta sbottonata davanti e la pancetta di fuori, i capelli bianchi e un'aria un po' misera, come dire, un po' acciaccata, un po' bastonata. Il suo colpo di coda contro il capitalismo americano è fallito, però, come dicevamo, questo voglio soldi che gridava in qualche modo, no? Una sua simbologia in questa estate accaldata qui a Roma, come a Joplin, Missouri, una sua simbologia bene o male ce l'ha. E pensare che solo ieri President Obama la metteva in tutt'altra maniera, parlando in un altro posto dell'America profonda, quella Raleigh, North Carolina, cittadina universitaria, se ce n'è una in America. Obama diceva: la verità è questa, abbiamo fermato la caduta libera, i mercati hanno recuperato, il sistema finanziario non è più sull'orlo del collasso, la perdita di posti di lavoro è due volte meno rapida di quanto di quando sono diventato presidente alcuni mesi fa, i prezzi delle case stanno risalendo per la prima volta da 3 anni, non c'è dubbio che le cose vanno meglio. I segnali, uno grande e presidenziale, l'altro piccolissimo e un po' pazzoide, quello del signor Appier a Joplin, sono, come dire, contrastanti. Ma quante volte capitano che segnali provenienti dagli stessi luoghi risultino di segno completamente diverso? Di fatto le cose probabilmente vanno in entrambi i modi, vanno nel modo di un presidente che comincia forse a vedere una luce intorno a un tunnel la cui lunghezza è tutta da stabilire, e vanno nel modo del signor Appier, che invece di suo non vede altro miglioramento alla sua vita che fare una pazzia, entrare in una banca, dire che c'è una bomba e quello che ne segue. Di fatto Barack Obama, come strilla oggi il sito di Drudge, forse ha bisogno di una vacanza. Ha tirato duramente, robustamente, intensamente la carretta per questi 6 mesi, ha tra l'altro ultimamente degli indici di gradimento che sono in caduta progressiva, talmente in caduta che quasi poi ci dispiace continuare a insistere su questo dato, ma del resto abbiamo reso omaggio ai trionfali indici di gradimento di Obama quando i tempi erano un po' diversi, e dobbiamo bene o male riportare supportare anche il fatto che l'indice di approvazione di Obama stia scendendo progressivamente su livelli, diciamo, se non altro più umani, anzi forse anche rispettabilissimi, vista comunque l'ambientazione di crisi e di disagio che lo circonda. Di fatto la questione della riforma sanitaria, la questione essenziale sul fronte domestico intorno alla quale si è battuto negli ultimi mesi, certamente nelle ultime settimane, quasi in esclusiva, è rimandata. Diciamo che per ora è un pareggio, non c'è un esito al fronte su cui sono tutti d'accordo a dire che Barack Obama giocherà il successo della propria presidenza, almeno il primo mandato. Si è deciso di posporre a fine settembre, parole di Obama, o forse meglio ancora a metà ottobre, le decisioni, le votazioni attorno al progetto di legge che riguarda l'ampliamento dell'assistenza sanitaria a tutti gli americani e anche una serie di modifiche dello scenario sanitario degli americani, che avranno meno da una sanità che era molto generosa e meno costosa, dovrebbero in alcuni casi pagare meno, ma in altri casi sentirsi un po' spogliati di una serie di privilegi, e poi molti hanno invece anche paura di pagare di più. C'è un grandissimo dibattito, di cui vi abbiamo reso conto quasi giorno per giorno, attorno a questa questione. Di sicuro se ne parlerà tra un po' di tempo. Gli americani di fatto sono preoccupati che la riforma avvenga a scapito della qualità e di un aumento dei costi per la salute sul loro bilancio familiare. No health care reform vote before autumn. Non ci sarà voto sulla riforma della sanità fino ad autunno. Queste sono le testuali parole pronunciate dal presidente poche ore or sono. Ne ha anche parlato poi pubblicamente in un supermercato, sempre in North Carolina, incontrando gli americani della strada. Poco prima aveva parlato a Bristol, invece in Virginia, nel supermercato, però addirittura non ha voluto neanche il palco che aveva a Bristol, si è messo proprio a parlare tra scaffali di pelati, frigoriferi e bottiglioni di aranciata. Il messaggio è il solito: i dati economici indicano un miglioramento, l'inizio della fine della recessione, secondo Obama una grande notizia, che deve essere però a suo parere congiunta con l'altra grande notizia, l'avviamento della riforma sanitaria, due passi avanti che secondo lui l'America non può rinunciare a fare prima che l'inverno arrivi. E di conseguenza si è un po', anche per quello che riguarda lo scenario americano, in vista del rientro ai box, insomma. Poi servirà, e magari cercheremo anche di farlo, magari già nella puntata di domani, poi alla ripresa delle trasmissioni, c'è da fare in realtà una grande riflessione su tutto ciò che questa nuova amministrazione ha prodotto nei suoi 6-7 mesi di lavoro. C'è sicuramente un cambio di regime, se me la passate, così intenso, così evidente, sia sul piano internazionale che sul piano della cosa nazionale, che bisogna tutto ciò razionalizzarlo, capirlo, quantificarlo, possibilmente anche giudicarlo, magari senza fretta, ma osservando comunque che c'è un nuovo dinamismo alla base della cosa americana, di questo 2009, che veramente proietta l'America sia in chiave nazionale, sia come progetto nazionale, come progetto sociale e naturalmente anche economico, sia in chiave internazionale come ridefinizione del ruolo della grande nazione nello scenario del mondo in un ventunesimo secolo al quale ora sembra veramente appartenere a tutto titolo di diritto, anche circondata da punti di vista, opinioni, sentimenti più dolci, diciamo così, di quanto accadeva fino a tempi recenti. Buona parte del merito di tutto ciò va naturalmente attribuito all'indirizzo che la nuova presidenza ha dato alla amministrazione in corso, nuova presidenza che tra l'altro stasera si dovrebbe concedere la famosa birretta, insomma pare che siano state raggiunte tutte le trattative necessarie per l'armistizio fra l'agente James Crowley della polizia di Cambridge, Boston, Massachusetts, quello che arrestò il professore di Harvard Henry Louis Gates provocando una reazione dichiarazione virulenta pubblica di Barack Obama, che disse che la polizia non si deve comportare in modo così stupido, poi marcia indietro, poi rampogna anche al professore che aveva dato in escandescenze, lei non sa chi sono io e via di questo passo, poi alla fine insomma con polemiche non troppo tenere si è saltata fuori questa idea, secondo me questo è frutto del paniere di Axelrod, il consulente di Barack Obama, che ha tirato fuori, no, il coniglio dal cilindro. Invitiamoli a bere una birra alla Casa Bianca, tre maschietti, magari un mega schermo con un evento sportivo, magari non so, una bella nuotata di Michael Phelps, una birretta e la razza scivola via. No, la razza non scivola via, ma se non altro non ci si arrocca, il discorso viene tenuto aperto. L'ultimissima notizia che voglio darvi riguarda invece il segretario di Stato Hillary Clinton, perché ne abbiamo già parlato un paio di giorni fa, attorno ai primi, si dice, ai primi sussurri, mormorii, attorno al fatto che Hillary, nel bene o nel male, con i suoi 12 milioni di dollari che sta faticosamente smaltendo di debiti accumulati nella disastrosa campagna elettorale, però bene o male questo suo ufficio elettorale fino alla fine non l'avrebbe smantellato, anzi sarebbe ancora in piedi e conterrebbe ben 8 persone, uno staff di 8 persone, uno staff molto rispettabile, degno di una corsa di primo livello, almeno nella fase iniziale, che costano diverse centinaia di migliaia di dollari a Hillary Clinton e che sono a tutti gli effetti un comitato esplorativo. Esplorativo di che cosa? Lei nega la ben più lontana intenzione di riprovarci, un po' perché la bastonata è stata fortissima, un po' perché è attivamente al servizio della nazione, terza carica della nazione, insomma è la faccia, la diplomazia americana nel mondo. Dopo 6 mesi non può certo pensare alle prossime elezioni, eppure ormai i giornalisti mormorano intensamente attorno a questa questione, anche a questo scenario e anche a questi 8 staffer all'opera e anche compensati per questo motivo. Lei dice non, per carità, non c'è niente nel mio radar, sono fuori dalle corse politiche, ma i giornalisti concludono: bah, se quella è una signora che sa come si gioca la politica, sa quanto può essere utile anche sul lungo termine mantenere attivo un ufficio esplorativo, è come avere una grande piattaforma sempre pronta sulla quale atterrare. Tutto sommato può darsi pure che in un angolo molto remoto del cervello una ideuccia Hillary Clinton ancora la mantenga viva. Vanno in vacanza alcuni scenari che abbiamo monitorato con attenzione nelle ultime settimane, vi diamo qualche aggiornamento che non cambia sostanzialmente il quadro, ma come dire semplicemente si limita a aggiungere qualche dato in più. Teheran, come sapete, Mousavi è tornato attivamente in piazza in occasione di questa manifestazione che si è tenuta al cimitero, una commemorazione delle vittime degli incidenti seguite alle votazioni presidenziali del 12 giugno. Ieri ne abbiamo ampiamente parlato con Alberto Negri, anche attorno all'apparente ammorbidimento progressivo che sembrava palesarsi da parte di Ahmadinejad e delle autorità di potere in Iran. Non è andata affatto così in occasione di questa manifestazione, che del resto è stata evidentemente giudicata come contenente un eccessivo fattore di provocazione, al punto che appunto Hossein Mousavi è stato addirittura costretto dalla polizia ad allontanarsi dal cimitero in questione. E il secondo aggiornamento che vi do prima di aprire il vero e proprio spazio 360 riguarda l'Honduras. Oscar Arias, il presidente del Costa Rica che sta fungendo da mediatore, avrebbe affermato che i governi stranieri devono mantenere le sanzioni contro il gruppo golpista che ha preso il potere a Tegucigalpa dopo aver esiliato il presidente legittimo Manuel Zelaya. In sostanza non si può pensare di arrivare a una soluzione soddisfacente che riporti il paese a una situazione di calma e funzionalità se non mantenendo viva la pressione sul gruppo che fa capo a Roberto Micheletti. Vedremo se le reazioni internazionali saranno di questo genere, ma ora apriamo ufficialmente il 360. 360 gradi, news dai punti sensibili del pianeta. E allora Stefano, io tanto per spostarci verso Oriente, verso la Cina, vorrei darvi conto, cari ascoltatori, di un po' di notizie che sono arrivate via mail dal nostro amico Luigi Guarda, imprenditore che da almeno 30 anni viaggia lungo la linea Venezia-Pechino, insomma abitué della Cina. Ci ha mandato alcune informazioni via mail direi molto interessanti. Io getto per esempio in piccionaia non tanto una notizia ma una percezione che ci riferisce il nostro Guarda, che credo possa essere utile per la discussione che tra pochi minuti farai, Stefano, sull'asse Cina-Stati Uniti, perché ci fa sapere, cosa peraltro prevedibile, che anche in Cina c'è stato grande risalto in questi giorni sui giornali, sui media cinesi, di questo vertice con tantissime persone tra l'altro al seguito tra Cina e Stati Uniti a Washington. I cinesi senza mezzi termini parlano spudoratamente di G2, dicono insomma che gli altri numeri sono tutti ormai relativi, c'è soltanto una certa preoccupazione, la fase G8, G20, insomma sono cose inutili ormai, loro parlano solo di Washington, Pechino, questi sono le regine del mondo, insomma Stati Uniti e Cina a guidare le sorti del pianeta. C'è soltanto da parte dei cinesi una certa preoccupazione per i forti investimenti in bond americani che hanno raggiunto queste cifre spesso impronunciabili per quanti zeri ci sono, comunque siamo sull'ordine degli 800 miliardi di dollari, poi sappiamo che Geithner ha rassicurato i cinesi, però i cinesi credo anche per tradizioni storiche rimangono piuttosto guardinghi su queste cose. Per il resto anche Guarda ci conferma, come peraltro Saro Capozzo e altri analisti che sentiamo frequentemente, che questo obiettivo dell'8% del PIL annuo rimane tale, insomma i cinesi sono molto fiduciosi che le cose si chiuderanno in bellezza in questo 2009. Adesso una di quelle notizie della serie, ma tutto sommato per fortuna io non c'ero, in quel momento ero altrove. Allora ci spostiamo al JFK, aeroporto di New York. Come ben sai, sul JFK c'è un traffico di aerei pari al raccordo certo. anulare di Roma, e poi c'è anche un signore. Il signore che ha 69 anni, è un ex pilota in pensione e si chiama John Pendergast, prima di tutto si è costruito un aereo da solo. Poi è partito dalla Virginia e ha detto io adesso voglio andare al Republic Airport di Long Island, che è un aeroporto di quelli tipo pista, no, una striscia di sabbia in mezzo a Long Island, però non si è informato proprio dov'era. E insomma, sai che ha fatto? A un certo punto ha visto che c'era un po' di traffico, no? Perché stava andando verso il JFK e si è messo a volare sopra il JFK. E questo non è uno scherzo. Ci sono delle notizie atterrite sui principali network americani che parlano di questo aeroplanino, un RV-7A sperimentale disegnato dallo stesso Pendergast, che per lunghi minuti ha cominciato a volare sulle rotte degli aerei, dei 747 e compagnia, che scendevano sul Kennedy, e si vedevano questo moscerino davanti, origine naturalmente, nella triste eventualità di disastri assoluti. E lui non se ne andava, ripassava e tornava in mezzo alle rotte. A un certo punto non hanno saputo far meglio che mandargli praticamente addosso un elicottero che l'ha preso, penso, l'ha preso per un'ala, diciamo, sono partiti in caccia. Gli ha detto: vieni con me e togliti immediatamente da quella rotta. Fatto sta, non sono riusciti a trovare una buona imputazione per chiuderlo in carcere e buttare la chiave, ma pare ci stiano ancora lavorando sopra, sul caro signor Pendergast. Ricordatevi questo nome. Quindi in questo momento è in prigione l'aviatore folle. Diciamo che alla stazione di polizia. Vabbè. Diciamo così. Io invece sulla Cina do una notizia piuttosto pesante, insomma, perché in Italia si sta discutendo anche in queste ore di RU486, della pillola abortiva. Invece arrivano dei dati, delle statistiche che naturalmente fanno impressione, visto che la Cina è popolata da più di 1 miliardo di persone, perché ogni anno si contano, e questa è una cifra che potrebbe essere errata per difetto, almeno 13 milioni di aborti. È una inchiesta che viene pubblicata oggi sul China Daily, e tra l'altro il popolare giornale in lingua inglese indaga anche sulle ragioni di un numero comunque elevatissimo di aborti in Cina, e pare che quasi la metà delle donne abbia subito un aborto perché non utilizza metodi di contraccezione, quindi non li conosce. Ed ecco che qui poi l'articolo si sviluppa segnalando l'importanza, la necessità di educare i giovani, insomma, ad una pratica sessuale e soprattutto una pratica contraccettiva adeguata per evitare questa piaga di milioni e milioni di aborti in Cina. Per una Cina contemporanea. Bene, tra poco, dopo le notizie di borsa, una conversazione su tutti questi temi così ribollenti, anche con sugli aerei sopra JFK, e soprattutto su come evitare gli aerei sopra JFK. Ospite Federico Rampini, a tra poco. Victory. Ah, ah, ah. E dunque abbiamo un ospite con il quale confrontare impressioni, sensazioni, soprattutto a cui chiedere alcuni punti di vista sulle ultime notizie che riguardano la cosa americana, ma soprattutto la cosa cino-americana. È Federico Rampini, neo corrispondente dagli Stati Uniti di Repubblica, dopo aver trascorso tanti anni a Pechino, in passato anche a San Francisco. Ora va a occupare questa slot così importante nella informazione internazionale da New York, e lo salutiamo con piacere. Ciao Federico, buongiorno. Grazie, buon pomeriggio. Abbiamo discusso a più riprese, abbiamo raccontato, abbiamo provato un po' a descrivere questa parata, no? Straordinaria parata del proprio efficientismo sociale ed economico, che ci sembra che la Cina, a un certo punto, senza neanche tra l'altro giocare i propri pezzi a 90, con una formazione così un po' di conserva, è andata a fare a Washington. Insomma, l'eco mondiale, l'attenzione, anche, come dire, la concentrazione, nel senso migliore del termine, degli americani per questo incontro, ci sembra aver scavalcato di gran lunga il tanto celebrato G8 dell'Abruzzo. In sostanza questa idea che si siano cominciati a fare i giochi veri sembra condivisa da tutti, faccia a faccia, a quattro occhi. È un po' anche la tua idea, l'idea che ti sei fatta in occasione di questa 48 ore di incontri? Ma effettivamente ha colpito la fantasia di tutti, certo. L'immaginazione, il fatto che tu ricordavi all'inizio, cioè che in fondo per questo vertice bilaterale che si è tenuto a Washington per due giorni, lunedì e martedì, tra Stati Uniti e Cina, gli americani hanno messo in campo una formazione ben più importante di quella che era andata al G8, perché oltre al presidente degli Stati Uniti Barack Obama, agli incontri con i cinesi hanno partecipato il segretario di Stato Hillary Clinton, il segretario al tesoro Tim Geithner, il banchiere centrale, governatore della Federal Reserve Ben Bernanke, quindi proprio tutti, c'era tutta la panchina, la prima fila anzi della squadra americana. I cinesi hanno mandato, non c'erano né il presidente né il primo ministro, però hanno mandato una delegazione di 150 persone, solo di rappresentanti del governo, non c'erano businessmen, certo. Quindi non si era mai vista all'estero una delegazione cinese di quelle dimensioni, e quindi parlare di un G2 ormai diventa naturale. È stato in un certo senso un po' un punto di svolta, pensi, nel disegno della politica internazionale, almeno dal punto di vista della cooperazione? Ma non sono sicuro che si possa ancora parlare di svolte, perché l'impressione che danno questi due giganti quando si incontrano è ancora di studiarsi, per tanti motivi. Abbiamo da una parte c'è un non so che di inesperienza sul fronte americano, è una squadra di governo relativamente giovane, certo, quella di Obama, certo, che sta decidendo un po' l'atteggiamento da prendere nei confronti della Cina, sotto pressioni contrastanti, perché c'è da un lato la volontà di Obama in generale di avere un approccio positivo alle relazioni internazionali, non conflittuale, però al suo interno per esempio ha delle componenti, i sindacati, la sinistra democratica, che sono tendenzialmente protezioniste, certo, contro la Cina. Dall'altro lato la Cina ha inevitabilmente l'atteggiamento di una potenza sfidante, certo, è numero due mondiale e sta prendendo le misure del suo grande avversario, non ha l'intenzione mai di accelerare i tempi verso una sorta di resa dei conti sulla leadership mondiale. Certo. Però Federico, quello che cercavo anche di raccontare nelle scorse trasmissioni è che io ricordo, insomma, in prima persona di aver partecipato a incontri, convegni, appuntamenti a Washington, per esempio, durante il secondo mandato Bush, durante il quale tanto si parlava, soprattutto in appuntamenti internazionali al Council o nelle sale del Senato, si parlava tanto di Cina, no? Cina colosso emergente, e io ricordo perfettamente toni ben diversamente bellicosi, cioè c'erano fior di uomini politici, un nome per tutti, Lieberman, no? Capaci di addirittura lasciare intravedere la possibilità di uno spettro di una guerra accesa da possibili motivazioni di carattere economico entro il ventunesimo secolo, cioè i termini erano completamente diversi, no? C'è stata veramente una svolta assai intensa in questa rappresentazione della Cina anche nella Washington dei politici, non pensi? Sì, è vero, il clima è cambiato, conta sicuramente il tipo di cultura politica che si porta dietro Obama e la sua squadra, il suo gruppo dirigente, con un approccio alle relazioni internazionali molto più multilateralista e anche una visione delle relazioni internazionali che non è a somma zero, cioè nei rapporti con la Cina, per esempio, non, gli americani non concepiscono questo rapporto bilaterale come un rapporto in cui ciò che guadagna l'uno lo perde l'altro. Per esempio sull'ambiente c'è questa visione che solo attraverso una cooperazione, uno sforzo congiunto tra Cina e Stati Uniti si possono risolvere i problemi del cambiamento climatico. D'altra parte è cambiato anche la realtà dei fatti e il rapporto di forze, cioè in pochi anni gli americani hanno dovuto aprire gli occhi di fronte al fatto che la forza finanziaria della Cina è un puntello fondamentale per gli equilibri del loro paese, cioè senza il continuo afflusso di capitali cinesi, in particolare le riserve della banca centrale cinese che vengono usate in larga parte per comprare titoli del debito pubblico americano, certo. L'America sarebbe in difficoltà. Certo. Ma pensi anche possa esistere, soprattutto negli ambienti specialistici, nei vertici economici dell'amministrazione Obama, come dire, una certa invidia, adesso uso una parola un po' grossolana, per lo stimolo alla cinese e per come ha funzionato, cifra più bassa, risultati apparentemente quasi immediati, invece, no, confrontati con la comunque grande fatica americana, al di là del fatto che adesso pare si possa tirare il famoso sospiro di sollievo? Ma io credo che questa invidia c'è in parte e addirittura mi spingerei fino a dire dovrebbe essercene ancora di più. Voglio dire questo, certo. Non c'è dubbio che la Cina ha sorpreso tutti riuscendo a evitare la recessione. Non è stata contagiata, ha avuto un rallentamento di crescita ma non è mai entrata in recessione. Questo è un fatto che ha smentito tutte le previsioni. Si pensava che questa recessione sarebbe stata veramente globale, che nessuno sarebbe riuscito a sganciarsi. La Cina ce l'ha fatta con le ricette tipiche di un sistema ancora fortemente statalista. Ecco, è una ricetta imitabile secondo te? È una ricetta che per certi versi l'America dovrebbe imparare a studiare un po' di più. Io faccio questa riflessione, siccome sto vivendo in questo momento sulla mia pelle, diciamo così, c'è un elemento autobiografico, questo passaggio, questa transizione, che per me è un ritorno negli Stati Uniti, però è un ritorno dopo 5 anni di Cina, 5 anni molto intensi. Insomma, io mi rendo conto nel passaggio da Pechino a New York di quanto l'America ha perso terreno, per esempio nelle infrastrutture, cioè fare un volo diretto dall'aeroporto di Pechino all'aeroporto di New York, l'arrivo a New York sembra di arrivare a Mumbai in India, è tutto vecchio, è tutto fatiscente, è tutto arcaico, decadente e in declino. Vogliamo dire che è tutto ventesimo secolo? La metropolitana di New York in confronto a quella di Pechino è uno spettacolo addirittura direi dell'Ottocento, cioè, e questo gli americani ancora non se ne rendono abbastanza conto. Obama lo dice spesso inizia i suoi discorsi con dei paragoni di questo genere, dicendo la Cina è molto più avanti a noi e cita, non so, alcuni elementi della ricerca universitaria, però nella società americana c'è ancora l'idea che loro sono i numeri uno, certo. Non capiscono quanto hanno perso terreno in settori fondamentali, quindi sì, qualcosa devono imparare a invidiare ancora di più la Cina. Tra qualche istante allora torniamo a parlare ancora con Federico Rampini, concludiamo questa nostra conversazione anche sulla base di questo paragone che mi sembra assai stimolante che Federico ora ha posto, no? C'è da dire bene o male che la Cina se non altro è partita dopo, no? È partita su una piattaforma tecnologica più evoluta rispetto al pionierismo americano nel costruire metropolitane, però di fatto il raffronto, il confronto in questo momento va in quasi tutti i casi da una parte ben precisa. Torniamo tra pochi istanti. Working through devil's pain. Last night I swear I felt your touch, gentle and warm, the hair stood on my arm. Put my rider aground. All these fine memories are fucking me down. I dreamed it was a dream that you were gone. I woke up feeling so ripped by reality. Yeah, love is the king of the beasts. When it gets hungry, it must kill to eat. Allora, torniamo a parlare con Federico Rampini da New York, dove sta, appunto, come abbiamo anticipato, occupando la nuova corrispondenza di Repubblica dagli Stati Uniti, e ci sta, appunto, aiutando a commentare gli ultimi sviluppi dell'amministrazione, la nuova amministrazione Obama, e delle sue ormai ravvicinate relazioni con la Cina, che sono poi si sono convogliate in queste 48 ore di vertice a Washington, su cui un po' tutto il mondo sta ragionando. Federico, eccoci. Una domanda vorrei fare, una domanda un po' maligna, chiedendo di fare un po' l'avvocato del diavolo a questo punto, ma nelle tue sensazioni, soprattutto in questo tuo andare su e giù fra Stati Uniti e Cina, e nella descrizione che ci facevi poc'anzi del progressivo slittamento, no, della funzionalità sociale del progetto nazione fra Cina e Stati Uniti, ma secondo te c'è qualcosa che può fermare in questa irresistibile ascesa nel XXI secolo? C'è qualcosa che può fermare la Cina? Sì, certamente. Vedo due possibili scenari di crisi. Io non faccio il guru, non faccio profezie. Però cerco di ragionare sulle fragilità nascoste che pure ci sono dentro il sistema cinese. Prima ho parlato delle sue forze, vedo la possibilità di una crisi politica, perché l'apparente solidità del regime autoritario cinese ogni tanto invece rivela delle improvvise crepe, delle falle interne. Ricordo cos'è avvenuto 3 settimane fa, la rivolta degli Uiguri, la minoranza islamica nello Xinjiang, pochi giorni fa questo episodio emblematico di una violentissima ribellione di operai nel corso di una ristrutturazione di un'acciaieria di Stato. Hanno 30.000 operai hanno manifestato, hanno addirittura preso ostaggio e poi assassinato l'amministratore delegato della loro azienda. Questo è un sintomo delle tensioni sociali che ci sono in Cina. Ma sono eventi che secondo te potrebbero arrivare a culminare in qualcosa di veramente epocale? Potrebbero, anche se al momento io non vedo un percorso preciso di una crisi politica, perché non vedo un movimento di opposizione in Cina, a differenza che, non so, in Iran, dove esiste un'opposizione che addirittura aveva un candidato che forse aveva vinto le elezioni presidenziali, in Cina questo non esiste. Non esiste per il momento una classe dirigente alternativa, quindi è dall'interno del Partito Comunista che dovrebbe venire fuori un'altra anima e un'altra formula politica. L'altra possibilità che non va completamente scartata, che può a un certo momento interrompere quantomeno la marcia trionfale del modello cinese, è un grosso incidente di tipo ambientale, una catastrofe ambientale. Cioè la Cina sta accumulando una serie di potenziali disastri ambientali, alcuni sono già di fatto, insomma lo smog di Pechino l'ho vissuto per 5 anni, ogni tanto raggiunge dei livelli intollerabili e con conseguenze evidentemente drammatiche sulla salute, l'avvelenamento delle acque, dei fiumi, dei laghi, le dighe che in certi casi sono pericolanti in zone sismiche. Potrebbe accadere qualcosa di grave anche su quel fronte. Vere polizze a rischio. Ultima cosa, Federico, per te, in sostanza la tua presa di servizio negli Stati Uniti coinciderà, non appena trascorse le vacanze, con la ripresa invece di questa dura battaglia, dura scalata che il presidente Obama sta dando alla questione sanitaria nazionale. Come dicevamo una mezz'oretta fa, siamo adesso in stand-by. Non ha vinto, ma non ha ancora perso, ma la situazione è andata via in modo assai meno agevole di quanto forse lui stesso poteva sperare, e i fronti sembrano assai roventi nell'immediato futuro. Hai un'idea su questo scenario? Ritieni che sia davvero il punto di svolta della sua amministrazione? Sì, sono d'accordo, anche se non ho idea di che svolta sarà, sì, certo. Positivo e negativo. Effettivamente è una battaglia ancora molto aperta, con delle forze potentissime schierate contro Obama, e ricordo quali sono: la lobby delle compagnie assicurative private che lucrano profitti immensi sul sistema sanitario così come è organizzato adesso, la lobby degli ospedali privati e di una classe medica che probabilmente è la più orientata al profitto di tutto il pianeta. Ecco, queste sono forze che riuscirono nel 93 a sconfiggere un altro piano di riforma sanitaria, quello di Bill Clinton e di Hillary Clinton, certo. Perché Clinton aveva affidato la moglie proprio, certo. Obama rischia un bis, sta cercando di evitare quel fiasco di allora, però il rischio è che per evitare che i veti incrociati siano troppo forti, lui annacqui la riforma fino quasi a svuotarla di contenuto. Certo, questa è un'ipotesi assai percorribile. Federico, ti ringraziamo e ti auguriamo buone vacanze, buon soggiorno americano. Grazie. E sempre a proposito di America, oggi c'è stata la conferenza stampa di presentazione della nuova mostra del cinema di Venezia, ed è arrivata una consistente fetta di America, di una certa America, un'America che raccoglie, magnetizza tante simpatie quanto antipatie. Secondo me siamo metà e metà, forse vincicchiano così le antipatie. Comunque, tagliando la testa al toro, il film di apertura della mostra sarà quello di Michael Moore, il cinefil, il filmmaker interventista, colui al quale alcuni sostengono George W. Bush deve una certa parte della sua seconda vittoria elettorale. Insomma, l'uomo che prova a raccontare l'America con un impegno la cui pasta, però, no? La cui oggettività o soggettività spesso e volentieri è in discussione. Sarà lui a raccontare naturalmente che cosa? La crisi, il disastro, il malessere, il disagio nazionale di questi ultimi mesi americani. Il film si intitola Capitalism, a Love Story, Capitalismo, una storia d'amore. Conterrà i consueti pellegrinaggi di Michael Moore attraverso la nazione in cerca della gente normale, quella che secondo lui soffre per l'avidità e gli errori di quelli che comandano, in modo piuttosto spiritoso, devo dire. Michael Moore presenta il suo film Capitalism, a Love Story, come un perfetto film da primo appuntamento, ovvero se avete una ragazza con la quale, insomma, volete farvi notare e darvi magari anche un po' da fare, portatela a vedere Capitalism, a Love Story, e secondo Michael Moore avrete fatto un bel passo avanti. Naturalmente questo è un suggerimento che, come si dice in questi casi, si apre alle più diverse e svariate interpretazioni. No, può essere che per esempio dopo i primi tre minuti dite ah che palle, ah, cominciate a parlare, dite che avete molti problemi, che avete bisogno di trovare qualcuno con cui confessarvi, intanto Macklemore continua la sua indagine, ma anche voi fate la vostra indagine. Sì, Mueller, Marco Mueller, il direttore, ha annunciato con un certo orgoglio dal 2 al 12 settembre la mostra del cinema di Venezia, e all'inaugurazione presente naturalmente anche Michael Moore, che darà parecchi argomenti su cui discutere alla stagione sia festivaliera sia di riavvicinamento alla politica americana. Questo è Jefferson 2, l'arte della svolta. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Milano Enrico, in regia Roma Paolo Corleoni, a Milano Filippo Aureggi, la mail è jefferson2@radio24.it, le pagine Facebook sono redazione Jefferson 2 e Jefferson 2 Radio 24, Express Yourself. Abbiamo la consueta replica a mezzanotte, il podcast sul sito della radio e la diretta dopo le 4, come sempre, qui su Radio 24. Ci sentiamo, state bene tutti. 为真假社会本来就是这样被误会又怎样被相信又怎样仿佛骑着游戏的人就请靠边站狗狗说着非常灵敏可以闻到很多东西却又色盲黑白分辨不清观众也就跟着相信最重要的是对得起自己不变的道理高手过招带着面具显得活得动机先硬我回家去打坐取舍生养性沉默的人最聪明不做无聊的回忆拜拜拜拜。